attenzione 10. Attento 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Ora, attento 10. Ciao, mi sei Mirko? Mi ascolti bene? No, adesso ti sento un po' meglio del solito. Sono levato l'antenna, avrei fatto qualcosa. Sì, adesso ti tiro fuori bene. Santiago 9 abbondanti. Come mi ascolti a me? Buonasera. Ciao tu, ben sentito. C'è anche Mirko Larghero. Te lo rilancio, avanti Antonio per Mirko. Capo, salutone Mirko, salutone ben sentito, capo. Cappa Mirko, dai, oggi ti sento un po' meglio, ti sento. Cos'hai combinato? Funziona meglio sì, perché io non riesco a tirarti fuori adesso. Come arrivo lì ad Alghero? Cappa, no, già va bene, già. Ok. Non è vicino da me, lontano l'Alghero. Cappa, guardate, sono contento che arrivi. Avanti, Robè. Sì, ha migliorato tanto, qua arriva oltre 9. Questa cosa dovresti fare in modo magari avere una radio un po' più forte, anche se ti ascolto perfettamente, però rispetto agli altri sei un po' più basso di radio, Mirko. Se c'è un microfono da tavolo amplificato, magari riesci ad andare anche meglio. No, senza modificare niente, dico. Che radio è? Ricordami che non mi ricordo. Così vediamo se sali un po' di radio, di livello di radio, perché ti ascolto bene, però rispetto a Antonio sei molto più basso. Va bene, vai a tu. Capo, se migliorare un po' di radio sarebbe meglio. Comunque adesso finalmente lo sento. Ma da già non lo sentivo quasi, se ti fidi. Cosa mi ha messo la Game Master, così è? Dice questa antenna autocostruita tipo Game Master, probabilmente ha sollevato anche un po' l'antenna, perché qua mi è arrivato tantissimo. Lo tiravo fuori, però era, quando c'era il QRM alto era un po' difficoltoso. Era quasi 8, quasi 9, arrivava, adesso lo supera il 9. E mi sto lavorando in ferie, sì. In ferie, domani mattina lavoro e poi torno in ferie, la sera ce l'ho libera, lunedì vado a ritirarmi le casse, che no, ho preso un paio di casse, cazzo, non le ho pagate tanto, ma c'avevano i Canon dietro, che facevano pietà, adesso me li ha cambiate e sono perfette, sono. Chi te le ha date? Ha venduto il mercato dell'usato. Ma dopo, ma quello napoletano o quello che c'è vicino alla piazzetta? Vicino alla piazzetta, però così non va bene, cioè, a me me lo devo dire, io ci passo un giorno, gli faccio vedere che sono stati cambiati, cioè, 30 euro a cassa mi ha preso, non è stato abbastanza onesto. Ma te devo permetterti Canon? Allora, perché ha dovuto smontare tutto, capo, ha dovuto smontare tutto, ha fatto un lavoro... Che non sarà così complicato, tu gli hai dato parlante e gli stati due fili dietro, i Canon quanto li paghi? Li pagherai 5 euro l'uno, ma esagerando i butti. Sì, travaglio vivo me, cosa stai dicendo? Che sono attive sono. Non so che sono attive, ma dove arriva il coso non è che sia così complicato. 30 euro, quindi hai speso 60 euro solo per metterti gli ingressi in Canon. Non permettermi, c'erano già, ma chi si chiederà ne non si via nulla. Io l'ho visto la verità, io l'ho visto, cazzo, io non ci riuscirei a farlo, non è così, no. Devi staccare tutto, devi dissaldare, poi ha trovato, dice, un'altra cosettina pure, che una di quelle condensatorini, come ti si chiama, ne che sa fare, ti che era mezzo battuto. E vabbè, allora ti ha fatto anche altri lavori. Vediamo se Mirko è rientrato. Avanti Mirko. Non lo sento io. Cosa volevo dire? Ma quindi tu stai lavorando solo la mattina? Ferie e mezza giornata, cioè? Capa, mezza giornata. Mezza giornata e via. Lavoro solo la mattina. Ma a me va bene così, mio, sai quanto sto bene? Mi andare a mare la sera. Stasera, secondo me sta andando da Costantino, mi porto una cantata e via. Chi è Costantino? È un circolo. E dove è questo circolo? È lì, Corso Vittorio Emanuele. Me ne sono vedi i circoli, ma vicino alla Raggio d'Oro? No, è più giù come si chiama? Dell'hotel. Ho capito, più giù del? Hotel. No, ho capito, ma a destra o a sinistra scendendo? destra, scendendo da qua però, da casa mia. Cioè scendendo da Piazza d'Italia risulta a destra. Eia. Non ci ho fatto caso, è proprio al corso questo circo, non ci ho fatto caso. Scendendo da Piazza d'Italia, aspetta, a sinistra. Non ci ho fatto caso. Vediamo Mico, sei rientrato, attenzione Mico, se ci sei batti un collo. Il segnale ti sei abbassato, sei quasi nuovo, la radio più o meno uguale, non è cambiato più di tanto. Infatti si è un po' abbassato, ripeto. Vediamo Antonio, come dici? Si è abbassato, sì. Prima superava il 9, Mirko, adesso c'è poco meno di 9. La radio è rimasta invariata, non ho notato differenza. Ma non ce l'hai tu un microfono amplificato per collegarla con la radio? Anche di quelli economici, maybe più 5, più 4. Ok, cambia. Infatti, tu dice che quasi quasi non riesce a tirarti fuori con questa radio che c'ha troppo QRM, questa che sta utilizzando adesso. Adesso rimetti quella di prima, Mirko, che fai molto meglio, così ti ascolta bene anche Antonio. Oh, io attacco l'amplificatore. Non avrei bisogno, fai la brava. L'altro giorno l'ho acceso perché, insomma, non può stare fermo questo coso qua, se no mi si guasta e ciao. Sì, ogni tanto falle girare le radio, è bene farle smuovere. Ma cosa radio ho sentito in questi giorni? Ho sentito la nuova antenna. Questo qua arriva forte. L'altro giorno l'ho sentito prima di andare in ferie, non mi ricordo quando, ero appena andato in ferie, adesso mi ricordo. Ho acceso un attimino, visto che ha guadagnato 5 punti da me. Da me quasi 9,20. E qua è salito parecchio, dice che anche in ricezione ha migliorato, no? Una bella antenna. Quella è leggermente più direttiva della Mantova, perché non ha i radiali e c'ha una specie di direttore davanti, è un'antenna di 8,5 metri, è molto grande. E c'ha un direttore come che c'abbia un'altra antenna davanti, di un paio di metri, circa 2,5 metri. E ti dà un po' di radiazione un po' più forte in quella direzione dove è messa, in quella direzione lì. Ma riprendi qualcosa dietro, ma non ti ne ha fatti nulla tanto. L'importante è che butti verso Sassa e lui vada bene, poi dietro già spara comunque. Vediamo Mico, se ci sei batti un colpo. Penso come te sta cosa. Tu fai ciò, conto, un bastone di scoppa lungo, 8,5 metri, e davanti c'è un altro bastone di scoppa. Cioè, sono due antenne appagliate. Sì, due antenne J-Pol, sono un tipo di antenne particolari, perché li utilizzavano nei dirigibili, figurati, nella seconda guerra mondiale tedesche, c'erano molto rendimento, però erano molto strette come banda, ti spostavi appena e perdevi tutto. Questo qua hanno fatto un brevetto, non so cosa abbiamo fatto, in modo che sia anche più larga come larghezza di banda. Lui dice che è andato anche su, oltre la frequenza normale dei CB, la frequenza radioamatoriale, e dice che andava bene il coso, il rosso era basso anche di lì, fa teoricamente 25-30 con l'antenna, con punti magari migliori, però funziona, dice, per certi versi meglio la Manta, ma io ho visto qua dei risultati un pochettino meglio, c'era tutte e due uguali le antenne, vicine, questa qua nuova è più bassa, e da me qualcosina ha migliorato. Vabbè, se no non avrebbe senso, dice che una 7 ottave. Sì, è più grande, la Manta sono quasi 7 metri, 6 metri e 75 più o meno, dai. Quella invece 8,50 metri. Già di quello qualcosina di rendimento dovrebbe avere minimo, però qualcosa un po' di più. Poi c'è questo elemento davanti, come chiamiamolo, direttore, dai. Detto volgarmente direttore, anche se non ha direttiva, però qualcosa li fa guadagnare. Io ho visto, lui dice che è molto silenzioso, è quello importante. Infatti un domani, quando io adesso devo mettere un'altra antenna, se non ho i risultati che spero, proverò a prenderne una io e fare una prova per vedere se, perché la Manta va benissimo, funziona benissimo, però nella mia zona è troppo rumoroso, cioè il QRM è mai meno di 7, certe volte è rarissimo e sì, sennò sempre il QRM è altissimo. No, io ce l'ho meno di 2, ecco. No, questa no, sicuramente non ha radiali, quindi è sorta, compreso. In questo momento è sì il QRM, e per dire non c'è disturbo di propagazione o cosa, sennò quando vedo gli spagnoli qua arrivano tutti 9 e disturbano i segnali bassi, annientano a tutti. C'è di bello che anche se c'è un segnale basso, basso riesce a ascoltarlo, perché sono tutti più forti della media, perché magari altri li sentono 5 e qua io li sento 8. Però quando vuoi con RM8 non fa niente, però avrebbe un'antenna bellissima, però non te li tira fuori. Vediamo Mirko se ci sei, avanti. L'altro giorno poi ho sentito Gianfranco, che era un po' senza sentirlo tanto tempo, 5 minuti, 10 minuti, perché anche io stavo uscendo, tutti erano pronti a uscire, abbiamo acceso un attimino, c'era Claudio, Gianfranco, e un secondo ne ha pensato anche Natalino, e poi ho chiuso. Di nuovo a te, Anto. Caffa, no, io, guarda, sì, l'ho sentito anche io l'altro giorno, così di sfuggita, e via. Comunque, io mi trovo bene con questa qua, perché io, QRM, ne ho poco e niente, ne ho, ma poco e nulla. Tu poi dove sei messo? Stai uscendo alla grande, meglio di altre persone che hanno posizioni molto migliori della tua, teoriche almeno, poi la realtà è tutta diversa. Stai uscendo alla grande, infatti anche lo stesso coso, Rubrofetta, che fine ha fatto? Proprio non più sentito. Anche lui, considerando che siete in un fosso rispetto a quelli che stanno alla zona alta, è uscito alla grande. No, non lo so pensare, avendo il palazzo che c'è qua. Il palazzo che c'è qua, su dove c'è la pizzeria di Bruno, cambia alto, se la metto lì guai. Sicuramente, anche se te l'abbia celebrata ce l'ho male qua. L'importante è che non sia il primo, il secondo mi piace a me, perché il primo ha rotto le palle. Quello rosso è quello più alto. No, preferisco il secondo, quello di piazza, perché ci sono quelle antenne che ti fanno un casino, non ne puoi piazzare anche io. Vabbè, magari disturbano tra di loro, ma basta lontanate, è grande, magari ti metti nell'angolo opposto all'antenna, hanno messo anche con le telefonia. Poi l'altro giorno non ho capito quando è che sono passato, c'era quella mega traliccio, non traliccio, cosa c'è? Dove c'era la telecom, non vi ha brigato a sasso, l'hai visto di lì? C'era una di quelle gru che ronda 50 metri, non so cosa stavano piazzando, niente nel senso. Sai, ripetitore. Ripetitore della cosa stavano mettendo sopra la telecom. Eia, vera una gella manna vera in terra, gatta. Eia, dimmi un po', cambiando il discorso, ai camerieri sceso ci sei? Ma cosa, mi sono andato a mare. Ma sera, cacca male, cos'ha? Era tardi. Ah, cosa mi ne ha fatti? Ci sono stato fino a sera, poi mi sono tornato a casa. Oh, oui. Sta cadere nemmeno, forse l'anno prossimo si farà qualcosa di bello, ma chi sanno, oggi cadere nemmeno gabbo, no? E poi per agosto mi dicono che è andato a mare, a chi dura, a giubbare il palato, una degli ai bassar forno, tavolini, eccetera eccetera, a su chi mi sembra i cigosi, vero? Sì, sicuramente, ci mancherebbe. Ok, Mirko, avanti a te. Sì, più o meno come prima, non è che ho notato grossa differenza, ma è cambiato radio pure. Ma questa è la prima che stavi utilizzando o la seconda che ci avevi? E dimmi un po' se lo vuoi dire, che lavoro fai tu? Hai detto la gometta al banco, cosa che fai? È tecnico? Ah, come non detto allora. Ok, vai a tu. Grappa Mirko, adesso sì che ti senti. Ascolta, io ti devo lasciare e ci sentiamo alle prossime. Ok, salutone per Mirko e Roberto. Ciao ciao. E io ci sono ben sentito, anche io tra poco probabilmente chiudo, che so più sacco di stare in casa. Sono rientrato stasera, sono andato in un bel posto, da stamattina con queste cascate, ho detto esci che facciano un attimo la radio, ora sarei dentro casa, c'è caldo. Di nuovo a te Mirko, i saluti per l'Antonio. Ciao ciao, ciao Mirko, ciao anche a te Roberto, ciao ciao. Ciao tu. Oh ciao, saluto che mi saluta. Ehi va, perché ti ho sentito, sono andato a salutarti, ci sentiamo, si sta chiudendo, non lo so. Fammi bene, ciao. Oh Fabri, è un onore sentirti dopo un po' di tempo. Ti saluto. Lo sai, no, che sono fuori, sono rientrato 10 giorni. Adesso mi posso attimare la riparto. Stavo spazzolando, ti ho sentito, sono andato a salutarti, tutto lì. Fammi bene, ci sentiamo alle prossime, non ho capito che stai chiudendo. Sì, sì, sto chiudendo. C'è Roberto e Mirko Valghero, ok. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ehi, ascolta, la tua chiude, come mi ascolti? Ho anche segnale modulazione, com'è la modulazione, il segnale? Buonissima, 9.20 Radio 5, anche di più di 9.20. ciao ciao. Ok dai Antonio, anche tu arrivi più o meno così, eh. Ok dai, stammi bene, ci sentiamo la prossima, dai, ok. Chi c'era? Roberto chi? Avanti. Sì, buonasera, ha detto Fabrizio, non so se ci siamo mai sentiti, non credo. E poi c'è Mirko ad Alghero. Il rapporto mio, a parte tua, Santiago 9, Radio 5. Ma sei in città, in che zona sei tu? Come sei più basso? Lui ti ascolta 9:20, dove sei? Zona più vicino a lui. Dai Andrea, va bene che tu sei mezzo rimbambito, cazzo, ci siamo sentiti diverse volte. Vabbè, sei mascherato. No, io sono qua, zona Budibudi, la veloce, dai. E sto utilizzando un dipolo, a Vulvertite è rivolto verso il mare, dai. Ok, tu arrivi lo stesso più o meno, no, una cosa del genere. Avanti, ascolta, com'è la mia modulazione? La modulazione, non ti do il 5 pieno, chiara, bella, pulita, però c'è un po' di fuscio sotto, ti sento, ti porti a presso, io c'ho il cuore armato, però la radio è bella, piacevole, chiara, c'è questo fruscio leggermente, però probabilmente perché non è fortissimo il segnale, magari se sollevi appena appena, tu sei in orizzontale, sei in mare. Ok, no, c'ho un dipolo che poi tra l'altro non è neanche per questa frequenza e quindi l'ho accordato. Ok, prova a vedere adesso se l'ha migliorato la modulazione. No, la modulazione, ti ripeto, forte e chiara, c'è un po' di fruscio perché il segnale non è fortissimo, non riesce a superare la soglia del fruscio del QRM, però la radio è pulita, chiara, bella. Ah, ecco, perché c'è il QRM più o meno con il mio segnale, forse quello è sicuramente quello. Sì, diciamo, non riesce a superare la soglia del QRM, però ti ascolto perfettamente, quasi 5 pieno, se non avete avuto questo sotto, questo leggero fruscio di QRM, forse un segnale appena più alto, probabilmente ti avrà dato 5 pieno. Vediamo Mirko se ti ascolta, l'alghero magari è un po' più difficile. Mirko, l'hai sentito a Fabrizio? Tu lo senti Fabrizio a Mirko? No, negativo, alghero negativo da questa parte, poi io ho il dipolo puntato verso il mare, quindi è impossibile. E non è una verticale per fare delle prove? No, non ce l'ho, non mi è mai interessato avere una verticale per la 27, perché la mia cosa principale è ascoltare, almeno qua, poi nel mio QTH, nell'altro QTH, cioè, vabbè, l'altro è diverso, c'ho direttive, c'ho il traliccio, altre cose, ed è diverso. Qua in città sono così e basta, è tutto qua, poi con il polo qua in zona già mi faccio sentire. Dalla modulazione sembrerebbe un K, confermi? Sì, adesso un K, però ne ho anche altre, oltre il K c'ho Yaesu, c'ho Icom, adesso stasera sto facendo, dall'altro mio QTH sto facendo delle prove, dei collegamenti in 27, stavo utilizzando un FT1000 MP della Yaesu. Poi c'è il 920, c'ho poi il 940, 950, eccetera. Sì, no, è confondibile, la modulazione del K è inconfondibile, è il numero uno. Non c'è per nessuno, soprattutto se c'hai quelli di vecchia generazione, il 44, il 14 e il 43 sono quelli che vanno benissimo a questo tipo di cosa, di frequenza. Poi naturalmente se fai altre cose c'è di meglio, però il K è più adatto per utilizzarlo, parliamo degli apparati un pochino più evoluti. Poi c'è il 60, sta utilizzando le microfonie. K. Mia, l'altro K, è Becla. Ciao Fabri, buonasera. Ho sentito buonasera Santiago 1, no, è propagazione. Oh Robè, ho sentito questo, io vabbè, QRM non ne ho, grazie a Dio questo tipo di Santiago 0. Ho sentito forse c'è un Fabri, Santiago 1. Come propagazione? Deve essere propagazione, è uno di fuori, sicuramente uno così che entra ogni tanto a dar fastidio. E Becla, come qua? Dov'è Robè? Santiago 1, un punto di bon, chiaramente. Ruia. Ciao, buonasera a tutti. No, mi sono per salutare, basta, stavo così scarrellando e vi ho sentito. Niente di che. Ciao Mirko, Alghero, buonasera. Avevi un po' più forte oggi, un po' più forte, meglio delle altre volte, cosa hai combinato? Sì, hai aumentato di qualche punto, non molto, ma comunque sei quasi 7, prima di 5, sei quasi 7. Va bene, avanti Fabrizio, buonasera. No, ma forse ha detto Fabrizio, lo sento saltare lui. Ma Claudio, sento, ma Claudio chi? O Roberto? Claudio Salviero, può essere. Ehi, a Claudio Salviero, ma veramente non lo sente? No, guarda, io c'ho il QRM, non ne ho, lo sento Santiago 1, Salviero, ma dove cazzo è? A Bosio, a Mascova di macchina? E io sono in campagna, sei l'unico che arrivi, Santiago 3 qua, l'unico proprio, basso arrivi. Mi sembra che hai detto che arrivo Santiago 3, basso, butta. In campagna, ragazzi, c'è campagna, a cosa, come si chiama, a Villa Grande Montereo, no, a Villa Grande Frisella. In campagna, non abito più a Carbonazzi, in campagna, capito, una zona X, zona X, campagna, vero Roma? Boh, ha detto campagna, cazzo, cazzo arrivavi 9.30 qua, 9.40, prima, blu, l'antenna è sempre così, e che cazzo, dove cazzo c'è la campagna, è un fuso, No, già è nato, probabilmente è una tenatura orientata diversamente, è capitato anche a me con uno qua vicino, ma vicino c'aveva un dipolo buttato in terra, gli altri arrivavano quelli lontani e li sentiva più forte, cioè, loro lo ascoltavano più forte di me, a me era 400 metri e mi arrivava a Santiago 9, tu sei quasi 9 qua, Fabrizio, Claudio è più in alto di me, però probabilmente non è aperto per la tua direzione. Ok, Mirko, comunque tu sei 9, quasi 9 anche tu, Fabrizio c'è una bella radio, ripeto, se avessi magari un'antenna un po' più performante ti ascoltavo a bomba. Ok, Claudio, sempre segnale a bomba, qua arrivano, niente da dire. Sono passato stamattina, ho visto l'antenna tua, Clara, nuova, è più bassa dell'altra, però è da manna, giù mai ci riesci ad arrivare, con quel palo corto sei quasi quanto l'altra antenna. Sì, 8,50 metri, vabbè, adesso devo, non ho tempo, la sto sperimentando. Poi chiaramente va all'altezza della mantova, oppure tolgo la mantova e metto quella, adesso vediamo, tanto non me ne mettessi più di tanto. Lo sai come la penso oramai, non è che ci abbiamo molto tempo a stare in radio. KK, Mirko, tu mi ascolti bene, Alarghiero? Sì, è un mostro di antenna quella, non è un giocattolo, non è come la manta, non ha 7 ottavi, capito? È 8,50 metri, poi ci hai visto com'è fatta, non è come la Game Master, è fatta in alluminio, è fatta bene, è come un'antenna normale, poi c'ha gli agganci in acciaio ossidabile per mantenere il J-Pole, c'ha il balmo già incorporato 1-1. Una bellissima antenna, veramente molto molto bella, ma soprattutto a differenza, io ce li ho tutte e due sotto commutatore, c'è una differenza allucinante, soprattutto in lontananza. Fabrizio con quel dipolo arriva a basso qua, ma molto basso, sia con un'antenna che con l'altra, arriva 2,5 modulati 3, con l'altra antenna arriva 3 modulati 3,5, quindi sicuramente io lo tiro fuori, ma lui non mi tira fuori a me, non lo so, vabbè, non è un problema. Avanti Fabrizio, se mi ascolti. Adesso ti ascolto, hai attaccato un amplificatore d'antenna esterno e ti ho portato a 4, adesso ti ascolto, dai. Vabbè, dai, ce la vuol dire che non è così. Di conseguenza deve essere cazzo che una zona che è l'offia per me, perché tu guadagni a Carbonazzi arrivavi 9.30 senza nessun problema. Ma io non sono a Sassari, io sono 4 km fuori Sassari, una zona molto alta, ma evidentemente il tuo dipolo è orientato a culo di scimmia, cosa vuoi ti dica? No, non arrivi neanche tu qua, sei Santiago 3, cosa che da Carbonazzi ti sentivo 9, 10, quindi è una cosa reciproca, capito? Però non è un problema mio sicuramente, perché era vero, arrivo benissimo, quindi no, mi sento tutti bene, perciò non è un problema mio. È un problema sicuramente della tua antenna, della posizione della tua antenna. Vai Roberto. Ehi, Fabio, un'informazione se la vuoi dire, che cos'è, che modello è di K? 14, 44 eccetera. No, ce l'ho detto, adesso sto usando il grande, uno dei due grandi che ti ho detto. Ehi, ne entrano molto di vitamine o sta uscendo tranquillo? No, guarda, di importante c'ho 10 watt, va 20, così, 25, capito? No, lo tengo basso, io non me ne frega niente, capito? Però sicuramente Claudio, la mia antenna, non si vedono o c'è qualche cosa, perché lui, ti ripeto, quando era Carbonazzi lui mi arrivava a 9.30, ma alla grande, capito? Quindi sicuramente c'è un qualche cosa che ostacola e non si segnali, sicuramente, perché tu qua mi stai arrivando a 9.20, vabbè, io Alghero negativo con questa antenna è puntata verso il mare, quindi Vabbè, dai, riprendilo bene. Scusa, quanto ti sto arrivando? Scusa, non ho capito, Fabrizio. Adesso qua, guarda, sei 9, 9, 10, dai, 9, quando muori 9, 10, modulato. Probabilmente lui è poco favorevole, con l'antenna Maria è più orientata verso, vabbè, lui è più in su di me, da un'altra parte, per quello probabilmente con l'antenna è radia in una direzione maggiore verso di me che rispetto a Claudio. Ma se metti la verticale ti ascolta perfettamente, vi ascoltate perfettamente, visto che lui si fa sentire anche all'Alghero e non ci sono problemi. Di nuovo a te Mirko il mic, vediamo se hai ascoltato a Fabrizio. Ma posizione orizzontale Fabrizio? Una vuol invertita nel polo, vuol invertita, dice. Per quello che non arriva qua. Sì, ma quando tu eri a carbonato, l'antenna è sempre così, non è mai stata spostata, quindi non è che a dire mi ho spostato, ho cambiato, così è, così era. Quindi sicuramente non si vede con la tua zona, c'è qualche ostacolo. Perché gli altri vengono bene, cazzo coso, adesso arrivano 20, Antonio Bombo 9.30, arriva anche 9, mi arriva Alessio, tutti arrivano forti, Gianni Occhiolumi 9.30, poi coso, l'altro lì vicino Antonio mi arriva 9. Capito? Sicuramente c'è qualche piccolo ostacolo che fa sì che il segnale non arriva, non so cosa dirti. Avanti Ocla. Sì, ma prima era vista ottica con te, adesso tu sei a proiezione orizzontale, io sono completamente da un'altra parte, ti sento, non è che non ti sento, però sei molto basso. Prova a commutare da un'antenna all'altra, ma il segnale non cambia, anzi, con la 7 ottavi arrivi 3,5 modulato, con la 5 ottavi arrivi 2,5 modulati 3. Quindi però va bene, non è un problema comunque, vedete. Avremmo modo di sentirci meglio, vero beh? Okay, ora, io sono sempre più piccolino, dai, vero? E tu sei oltre il più del 4, quindi sei 9,40 e ti stai avvicinando al segnale che avevi prima. Con la 7 ottavi lo superi, mancano, vabbè, direi di 9,60 e con la 7 ottavi 9,50 e con la mantova 9,40. E sono sempre la stessa, io non tiro, già lo sai, lavoro sempre con potenze molto molto limitate, non mi sono mai messo a utilizzare apparecchiature per aumentare. Infatti chi conta l'antenna non ti ne va in nulla di avere potenze. Per avere un kilowatt se c'è un'antenna che non rende non ne va in nulla. Io parto sempre da quel presupposto. Ok, di nuovo a te Mirko, io rimango qualche minuto e poi vi devo lasciare. Vai Mirko, e vabbè, viene a dire anche probabilmente abbiamo un dipolo accordato su altre frequenze, lui lo sta adattando con un accordatore, confermi Fabrizio? Sì, è così, non risuona in 27, hai capito? E ha detto tutto, per cui c'è già una perdita di cosa, magari poi non è orientato esattamente come dovrebbe essere verso Claudio e perdi una marea di segnale. Beh signori, io vi saluto che devo far cosa adesso, ciao Fabrizio, ben sentito, non so se ci siamo sentiti altre volte, ma se capita sarà un piacere riascoltare. Infatti, ciao Claudio, a te già ti sento spesso, idem a Mirko, sistemate un po' l'antenna Mirko in modo che ti fai sentire anche quelli un pochettino più critici. Ciao ciao, quello ti da parte mia. Ciao Robè, e io seguo, dai, sono entrato a salutare e sono trattenuto a fare due passaggi. Ciao Fabrizio, mi ascolti, un abbraccio, ben ascoltato dopo tanto, ciao Mirko, ciao Roberto, c'è chiunque sia in ascolto, dai. Ok, ciao a tutti, buon fine serata, alle prossimine, ciao ciao. Ehi, allora, ciao. Ci sentiamo, sta ben bene. Oh Robè, guarda, un paio di volte abbiamo anche bevuto assieme nello stesso tavolino, Cosa che avete parlato in due, Fabri? Ma spero che almeno la modulazione sia sempre la mia. No, la tua è di luce, adesso ti ascoltiamo perché sto utilizzando un accordatore esterno e quindi ti ho portato un po' su. Tutto a posto. Ok, per Roberto se c'è ancora, già ci siamo anche visti, abbiamo bevuto anche nello stesso tavolino. Con Roberto? Sì, ha già chiuso, vabbè, sì, hai Roberto, nel bar dove ci siamo visti noi, ho qua. Ah, è sempre giù, già ti ho capito, va bene, dai. Ok, dai Fabri, che è pronta la cena, ci sentiamo, ciao, un abbraccio di nuovo, fatti sentire più spesso, io vabbè sono Gubbeggio e adesso sono assente, comunque ti ripeto, io non abito più a Sassari, abito a 4 km da Sassari, una zona abbastanza buona, alta, però sicuramente abbiamo dei problemi tra me e te. Ok, ciao Mirko, ciao a tutti quelli che sono in ascolto su 10, bye bye, buonanotte. Ehi, ciao Claudio, ci sentiamo, sta bene alle prossime.